24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, condannato in primo grado per abuso d'ufficio per l'inchiesta Why Not da lui condotta quando era pubblico ministero a Catanzaro. Per il sindaco di Napoli è stato un mercoledì nero, condannato per aver acquisito senza autorizzazione delle Camere tabulati di parlamentari. Qualcuno mi chiede che io mi dovrei dimettere perché una sentenza di questo tipo mi ha condannato. Io credo che guardandosi allo specchio e provando vergogna quei giudici di quel tribunale si dovrebbero dimettere. Questo era Luigi De Magistris subito dopo la condanna. Ecco, però sentiamo che cosa diceva lo stesso De Magistris nel 2007, prima di candidarsi, insomma quando era ancora pubblico ministero. Una volta si accusava la magistratura di utilizzare il maglio della carcerazione preventiva o della custodia cautelare per dettare l'agenda politica. Attualmente c'è un'insofferenza fortissima addirittura nei confronti delle inchieste della magistratura penale. Ecco, Marco De Marco, editorialista del Corriere della Sera, buongiorno, a lungo direttore del Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno. Tu hai seguito tutta la parabola di De Magistris come direttore del giornale. Ti aspettavi un epilogo così? Beh, se posso essere sincero, sì. Ma sì, siamo però... siamo all'epilogo. Sì, siamo all'epilogo, anche se non è come molti si immaginano a Napoli, perché a Napoli molti che lo hanno votato, quelli che poi hanno permesso di farlo eleggere, ora vorrebbero un tocco di bacchetta che li assolvesse alle loro colpe. Probabilmente questo non avverrà. Ecco, tu hai scritto nell'editoriale di venerdì sul Corriere della Sera che il caso De Magistris non solo è un caso unico, perché è senza un partito, senza maggioranza, pluricommissariato, adesso condannato, ma soprattutto mette i partiti di destra e di sinistra di fronte al tema della loro inconsistenza, perché questo è il dato drammatico. Ho scritto che dovrebbero autoflagellarsi, ed è così. De Magistris era assolutamente improbabile come figura, come amministratore di una grande città, eppure il disastro politico della destra, specialmente a Napoli, e il disastro ancora più grande della sinistra, che ha governato per quasi un ventennio, ha fatto sì che l'impossibile diventasse possibile. Cioè un De Magistris che non era all'orizzonte, che non era neanche assolutamente immaginabile nella città dell'illuminismo, nella città delle grandi lotte. Insomma, non c'era quel margine. È stato possibile questo solo perché contemporaneamente destra e sinistra a Napoli hanno fatto un patatrac. Ecco, ma dopo l'autoflagellazione che ha prodotto De Magistris, c'è la possibilità di rigenerazione di questo insieme di partiti oppure no? Intanto scusa, 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, per chi l'SMS, per chi volesse intervenire. Scusami. Sì, dicevo, il dato oggettivo gioca a favore di questa tesi, nel senso che quando si tocca il fondo poi si rimbalza, almeno si rimbalza. Esatto. Il dato oggettivo. Il dato soggettivo, cioè delle singole forze in campo, è quello di prima. Cioè destra e sinistra, salvo qualche eccezione, destra e sinistra non sono ancora capaci di indicare una prospettiva. L'unica persona che insomma è rimasta al suo posto, che ha fatto opposizione in questi 5 anni, è stato quel Lettieri che perse nel confronto diretto 5 anni fa. È rimasto lì in consiglio comunale, ha fatto la sua battaglia, punto. Per il resto insomma non si vede all'orizzonte nulla di Possa fare questa rigenerazione. Ecco, De Magistris è il simbolo del partito dei giudici. Adesso dai giudici è stato condannato, però lui dice: sono una vittima. Sì, di se stesso. No, lì è la fine, proprio è una stagione che si rovescia, è un testacoda del giustizialismo. Con De Magistris tutta quella stagione lì è finita. È finito, tant'è vero che gli sparano addosso i magistrati. È paradossale, guarda, è paradossale. Cioè, Berlusconi diceva la stessa cosa, ha sempre sostenuto la stessa cosa che sostiene i magistrati. Io vedo che sia paradossale questo, che gli sparano addosso i Travaglio, gli Ingroia, cioè i compagni di lotta, in qualche modo invece lo giustificano chi? Renzi addirittura e Caldoro, che è il e come te lo spieghi? Me lo spiego, diciamo che di fronte ad una legge, la legge che gli impone di da Severino, insomma, per capirci. Sì, lì c'è un imbarazzo, insomma, bisogna decidere questa legge è una legge giustizialista o una legge, come dice invece Cantone, addirittura garantista. Di fronte a questa legge gli schemi saltano. Questo succede. Ecco, lui diceva, De Magistris, che da pubblico ministero diceva che le sentenze avrebbero riscritto la storia. Ecco, questa è una sentenza di quelle che riscriverà la storia per la ragione che hai detto tu. Sì, la fine di De Magistris, secondo me, è qui, è più sul piano di immagine, teorico, di cultura politica che sostanziale, perché nella sostanza io temo, ahimè, che Napoli si impaluderà ancora di più senza uscire da questa situazione, perché noi avremo per 18 mesi un sindaco sospeso. Senti, ti leggo un sms che abbiamo ricevuto da Gennaro da Napoli. Di fatto 3 anni fa eravamo nella munnezza, non in senso metaforico. Ora Napoli, ad esempio, è piena di turisti. Vero o no? Insomma, c'è a Napoli ogni estate si dice che tornano i turisti, c'è un grande salto. In realtà tutti i turisti che arrivano a Napoli non sono minima parte di quelli che Napoli aveva già negli anni 60. Quindi questa prospettiva è una prospettiva un po' illusoria. La verità è che noi siamo nella monnezza ancora, scusatemi il termine, perché quello che sta venendo fuori è che in tutti questi anni De Magistris, che avrebbe dovuto trovare una soluzione a questo problema, promise il 90% di differenziata, ad esempio, e ora siamo ai livelli inferiori a quella della Iervolino, cioè che stava prima di lui. Non un impianto è stato fatto, spendiamo l'ira di Dio per mandare i nostri rifiuti in crociera nei mari del nord, pagando l'impossibile. Questo è la monnezza. De Magistris. No. Cioè, ma si voterà? Voterà? Beh, prima o poi si voterà. No, prima o poi di sempre si vota. No, e questo dipende appunto da quella destra e da quella sinistra, che se per loro non sarebbe difficile dare la spallata vera a De Magistris. C'è Buttafuoco che ti vuole fare una domanda. Buongiorno, ciao, parto da un noto motto del Regno delle Due Sicilie. No, quello ancora più sofisticato, dove diceva che, lo traduco in italiano ovviamente, che se a Napoli fanno gli strummoli, che sarebbero, la metafora di imbroglio, a Palermo poi li vendono. Allora, lì c'è un disastro, a Napoli pure, e c'è un'obiettiva complicità di Matteo Renzi, che nella migliore delle ipotesi, diciamo, è indifferente, nella peggiore sostiene. Allora, la domanda è questa. Questo De Magistris, di fatto, è sostenuto da Matteo Renzi, sì o no? Guarda, a me ha colpito la dichiarazione di Matteo, di Renzi sulla legge Severino, perché dicendo che questa legge Severino è una legge ingiusta per i privati, insomma, in sostanza gli dà un bel assist a Renzi. Dopodiché il rapporto tra i due è un rapporto molto strumentale, perché Renzi è venuto qui un mese fa e ha firmato un protocollo d'intesa con De Magistris su Bagnoli, e che legittimava un'ipotesi di grande accordo. Dopodiché torna a Roma e lo commissaria proprio su Bagnoli. Quindi è una storia di intese e tradimenti. Senti, un'ultimissima cosa, ma a Napoli, ci chiede Ugo da Napoli, non esiste solo destra e sinistra, c'è il Movimento 5 Stelle, c'è un futuro per loro? Beh, il fatto che io me ne sia quasi di dimenticato della mia analisi, e credo che sia un dato oggettivo, non essendo io un osservatore proprio disattento. No. La realtà è che sì, ci saranno, ma purtroppo hanno scelto questa via della rete e li stanno, insomma, si sono anche riuniti per la verità di recente, ma se devo essere sincero, appunto, io non vedo questa grande presenza. Grazie. Prego, grazie a voi. In West Africa, Ebola is now an epidemic. La diffusione del virus Ebola è ormai fuori controllo. Le persone muoiono in mezzo alla strada. L'epidemia è oramai una minaccia potenziale alla sicurezza globale e per questo richiede una risposta globale. It's a potential threat to global security. Entro inizio novembre vi saranno quasi 10.000 casi in Liberia, quasi 6.000 in Guinea ed oltre 5.000 in Sierra Leone. È questo il monito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Today is a miraculous day. Oggi è un giorno miracoloso. Sono felice di essere vivo, di stare bene e di ricongiungermi con la mia famiglia. Dio mi ha salvato la vita. La risposta diretta a migliaia e migliaia di preghiere. Ken Brantley, medico missionario colpito dall'Ebola in Liberia e guarito dopo le cure all'Emory Hospital in Georgia. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani. Ecco, uno dei più grandi centri di cura e di ricerca in Italia per lo studio delle malattie infettive. Dottor Ippolito, ma l'emergenza Ebola è davvero così grave? L'emergenza Ebola è così importante perché è la prima volta che colpisce quella zona dell'Africa, è la prima volta che un'epidemia continua così a lungo, la prima volta che un'epidemia non viene contenuta con i sistemi normali di isolamento. Ma è fuori controllo, come ha detto Obama, oppure no? Attualmente le indicazioni fanno pensare che soprattutto in Liberia, un po' meno in Sierra Leone, ci sia realmente una diffusione assolutamente incontrollata. Senta, ma qual è il ruolo dell'Istituto Spallanzani in questa crisi? L'Istituto Spallanzani dalla fine di marzo, su mandato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha attivato una serie di supporti internazionali nell'ambito di un programma europeo per portare laboratori mobili in Africa. In più ha fornito, sempre tramite l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le proprie competenze cliniche e scientifiche. Quindi siete all'avanguardia lì, insomma, in qualche modo. Sì. Siamo una delle sei strutture che in Europa è stata mobilizzata e che normalmente viene mobilizzata quando c'è un evento di questo tipo. Ecco, ma in due parole semplici, mi dice come avviene il contagio di Ebola, ma proprio semplicissime. Il contagio avviene solamente con il contatto diretto con le persone e con i materiali biologici. Non avviene con persone che non hanno sintomi, quindi avviene solo con persone che sono sintomatiche, che hanno diarrea, lesioni cutanee o altro. Quindi in condizioni di estrema, di condizioni igieniche estremamente negative, diciamo, sì, così. Di contatto, ecco, oltretutto diretto, sotto i due metri, diretto proprio. Insomma, non è semplicissimo, ecco, non è proprio non semplice. È semplicissimo. Ecco, però è molto difficile per l'opinione pubblica avere una visione reale e equilibrata di questo problema. Spesso si incrociano dei luoghi comuni e l'ignoranza, soprattutto l'ignoranza sul tema. Per esempio, una domanda fra le più ricorrenti: Ebola causa più morti di tutte le altre malattie infettive? Ecco, questo è falso. Noi abbiamo fatto un fact checking su questo, ecco, un secondo professore, con Pagella Politica, concentrandoci sui paesi colpiti dall'epidemia, Sierra Leone, Liberia, Guinea. Abbiamo confrontato il numero dei morti avvenute per Ebola con i decessi causati da altre malattie come malaria o diarrea. Se le morti accertate di Ebola, purtroppo, sono 2.909, le persone decedute per malaria sono 21.400. Dunque, mi pare che, professor Ippolito, perché ci preoccupiamo tanto dell'Ebola e invece non si sente parlare di malaria, per esempio, in termini... O di tubercolosi in termini così drammatici. Esattamente, perché Ebola intanto ha una connotazione di una malattia non nota, bisogna dire che Dustin Hoffman col suo film ha fatto scuola. Secondo, la difficoltà di controllarla, soprattutto in un caso, finora non era mai successo che venivano toccate le capitali e l'epidemia era relegata a villaggi. viaggi, il fatto che viaggi in qualche modo, basta pensare che il caso della Nigeria, una persona che è uscita bypassando i controlli dalla Guinea è arrivato in Nigeria, dove fortunatamente un sistema sanitario più solido, più strutturato è riuscito a contenere in maniera drammatica fortissimo, perché noi in Nigeria abbiamo avuto in totale 21 casi e solo 8 morti, proprio perché il sistema è stato un sistema controllato. Ecco, 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco professore, sempre dal nostro fact checking è emerso che il tasso di mortalità di Ebola è del 50%, non del 90 come dicono alcuni, è vero? Vero, questa epidemia ha una mortalità nettamente inferiore, anzi ci sono stime che nei centri in cui viene data un'assistenza clinica decente, perché spesso l'assistenza clinica in quei paesi è indecente, la mortalità può scendere anche al 25%. Senta, il ricercatore italiano Riccardo Cortese ha scoperto un vaccino che copre dall'Ebola per 10 mesi. Significa che quindi si può sconfiggere? Significa che quando avremo quantità sufficienti di vaccino, il vaccino ha appena iniziato la fase 1 sull'uomo. Riccardo Cortese è un grande scienziato che ha avuto una grande inventiva di trovare il vettore, ovvero sia il treno su cui mettere questa particella che porta Ebola per dare come vaccino. È una scoperta eccezionale. Ecco, dottor Ippolito, un'ultima domanda. Secondo un'inchiesta della Procura di Roma, esistono dei trafficanti di agenti patogeni e l'Italia sembra essere uno snodo fondamentale per il traffico dei virus, è vero? Ma guardi, questa cosa non mi risulta. Esistono procedure per lo scambio di materiale biologico e di ceppi. Oggi con i test genetici è possibile controllare esattamente quali ceppi si sono. Forse, e noi abbiamo visto in altri paesi casi simili, forse è necessario avere informazioni maggiori e valutare questi aspetti. Un'ultimissima cosa che ci chiede un nostro ascoltatore: in che senso ha detto lei il contagio sotto i 2 metri? Perché è aerobico? Ma perché è una misura di sicurezza per il contatto. Si dice alla gente, quando vedete una persona che ha Ebola, che ha la febbre, che ha lesioni, la prima cosa, non dategli manco la mano, statene lontano. E questa è una misura di prevenzione di popolazione estremamente efficace. Grazie professore, il tema della sicurezza nell'ambito della ricerca scientifica è sempre più centrale per garantire la sicurezza della popolazione. Signore, che succede? A quanto pare abbiamo un livello 4. Febbre emorragica, mortalità elevata. Mortalità preoccupantemente alta, localizzata nel raggio di 5 km. Breve periodo di incubazione. Questo è il virus più brutto che abbia mai visto. Nel giro di un'ora un singolo virus invade la cellula, si moltiplica e la uccide. Entra un virus e ne escono milioni. È un miliardesimo di noi e ci sta battendo. È stata una fuga di laboratorio. Un virus ha ucciso tutti. Sono il colonnello Stephen McKenzie, del Servizio Informativo Militare degli Stati Uniti, presso l'Organizzazione Internazionale della Sanità. C'è il portatore di un'epidemia sul vostro treno. Una sorta di peste polmonare. La febbre sta diminuendo, funziona. Non dovremmo contattare il comando e avvertirli che abbiamo l'antidoto? Quelli vogliono tenersi l'arma. Non vede che c'è la possibilità di salvare questa gente? Lei è matto. Non abbiamo usato l'antidoto. Se l'avevamo, la cosa verrà fuori. Germana Tappero Merlo, esperta di sicurezza internazionale, in questi giorni abbiamo sentito, si parla anche di martiri di Ebola da lanciare in operazioni kamikaze negli Stati Uniti. È un'operazione possibile? Ma io al momento la escluderei. Perché? In parte perché l'emergenza infettiva è stata già comunque posta sotto controllo, perlomeno è circoscritta l'area di contaminazione. Tuttavia bisogna anche considerare un altro fatto, ecco, che l'affermazione martiri di Ebola è una frase intercettata in una conversazione telefonica fra due soggetti terroristici. Quindi cosa significa? Molto probabilmente anche controinformazione, cioè cavalcare un pochettino l'onda di quello che sta succedendo. La paura, cavalcare la paura, insomma. Certo, cavalcare. Ecco, ma l'ISIS cerca dei medici, perché? Ma allora, Allora, l'ISIS sta agendo su vari fronti, fra i quali anche quello dell'accaparramento di armi, per esempio chimiche, e in ogni caso, ecco, diciamo che non è così semplice gestire un'arma non convenzionale come quella batteriologica. Ecco. Non è possibile solo attraverso un ricercatore, un medico o più persone, bisogna anche avere delle strutture, delle infrastrutture che fanno a capo però a centri di ricerca farmaceutica, ecco, università. Ecco, a proposito di questo, dottoressa Tappero, nel 2013 sono state inviate alla Casa Bianca lettere con ricina, un agente che è molto tossico. Sì. Allora l'incubo un po' realtà diventa però. Sì, certamente queste sono quasi sempre azioni di singoli individui, non è un caso, però ormai l'allerta c'è anche a questo livello. Ecco, ma chi commercia, chi è che commercia in agenti patogeni? Ma vedi, ormai il terrorismo internazionale, che io preferisco definire internazionale del terrorismo, proprio perché ha sempre più connivenze con la criminalità organizzata transnazionale, che lucra fortemente sulla vendita e sul passaggio e traffico di questi elementi, attraverso magari singoli che fanno parte di centri di ricerca oppure di laboratori farmaceutici che riescono a sottrarle e a venderle. Questo non soltanto, anche se molto molto limitato, perché l'arma biologica rispetto a quella chimica e radioattiva è molto più difficile da gestire in termini proprio tecnici, però ecco che a fianco di altri traffici illeciti come le droghe… Cioè, insieme alla droga viaggiano anche gli agenti patogeni? Più che agenti patogeni sicuramente sì, è stato segnalato, ma anche e soprattutto materiale radioattivo. Materiale radioattivo insieme alla droga? Eh sì, tante volte c'è stata anche contaminazione, partite di droga trovate contaminate proprio da questa cosa, anche perché è molto più facile e anche più occultabile, sono dei pacchettini di materiale rispetto a magari armi o quant'altro che sono invece molto più visibili. Ma qual è il modo per contrastare il biohacking, cioè l'utilizzo di virus contro la popolazione? Allora, guarda, innanzitutto deve esserci quella che noi chiamiamo nel settore una sicurezza partecipata pubblico e privato, dato che presi di mira sono i centri di ricerca e le case farmaceutiche, non vi è ancora abbastanza consapevolezza di questo rischio da parte di costoro, ma sicuramente una collaborazione fra forze di intelligence, quindi statali, pubbliche, con il settore privato di ricerca e di laboratori, ecco che allora nel monitoraggio e anche nel controllo delle stesse infrastrutture, quindi la gestione dell'informazione, la condivisione a livello internazionale. Ma quindi il lavoro di intelligence deve diventare sempre più scientifico e tecnologico? Assolutamente sì, ma se già per esempio a livello di sicurezza cibernetica c'è già più consapevolezza, e infatti c'è un'intelligence che lavora a livello di sicurezza informatica e cibernetica, per dirla in generale, a livello invece scientifico e tecnologico non vi è ancora la piena consapevolezza di questo rischio, considerando anche che questa nuova generazione di terroristi, che ha ora la sigla di ISIS, ma chissà quale sigla avrà nei prossimi anni, in qualsiasi parte si manifesterà, e proprio per il carattere che abbiamo detto prima di una minaccia internazionale e transnazionale, è fatta da giovani che possono avere anche delle competenze, ormai giovani formati nelle università, quindi con una competenza anche a livello tecnologico che può competere, quindi non parliamo più soltanto non solo di invasati, ma di invasati formati tecnologicamente. Ecco, dottoressa, quello che è il rischio. Dottoressa Tappero, Mero, un'ultima domanda sul Washington Post. C'è scritto che la scelta di Obama di inviare 3.000 soldati in Africa occidentale, si dice per curare Ebola, in realtà sia per rimettere le mani sul territorio, cioè per controllare di nuovo l'Africa. Sicuramente a fronte di quello che è successo negli ultimi due anni, non solo in Siria ma anche in Iraq, quindi la degenerazione, morti, devastazione, una guerra, un dispiegamento di 3.000 militari sul territorio africano, di fronte, è vero, un'emergenza umanitaria come quella, ma insomma abbiamo visto... Diciamo che Ebola potrebbe essere un bel pretesto. Ecco, diciamo che dà adito a questa interpretazione. Mix 24. La gelosia non è più di moda, è una follia che non si usa più. Devi avere cuore contento, stile 900. 300 per godere la gioventù. Se tu sei triste bevi il whisky and soda, così all'amore non ci pensi più. Bella, prendi il mondo le bella molto, da lunedì. E è successo questo. Che Giove in doppio petto è proprio irrecuperabile. Stamattina seduto in metropolitana era in vena di complimenti con le ragazze, ed erano queste le studentesse graziose come giunchi, piegate dal peso dei dizionari di greco e di latino, ed era tutto un gioco di felicità, perché ancora una volta oggi è un giorno rubato all'autunno. Era tutto luce, tutto sole, però Giunone, gelosissima perché Giove in doppio petto se ne stava lì a fare complimenti, non potendo scatenare la pioggia, perché la pioggia è competenza del marito, li ha costretti tutti in metropolitana. E allora lì Giove in doppio petto, da vecchio navigato impresario, ha voluto far sì che si creasse uno spettacolo, un vero varietà, un vero spettacolo fatto proprio stamattina, e tutte quante le ragazze a cantare "La gelosia non è più di moda". Siamo per andare nella pentola di Mario Secchi. Che cosa c'è là dentro? Cosa bolle? Buon cibo. Senti qui. La verità è giusta, la verità funziona. La verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. La verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Beh, è tornato Gecko. Sempre lui, non è mandato via. Sì, vabbè, ha fatto un po' di vacanze quest'estate, io l'ho incontrato due volte. Vabbè, allora, i nastri della Goldman Sachs, o di Goldman Sachs, come preferite. È una come storia... quelli di De Magistris. Sì, è fantastica. Ci sono 46 ore di registrazione che una ex dipendente della Fed, licenziata dalla Fed perché non troppo compiacente con Goldman, insomma 46 ore di registrazione, di meeting, di incontri, di colloqui riservati e così via, che svelano che cosa? Che il grande regolatore, cioè la Federal Reserve, era molto, molto, molto compiacente con Goldman. E cioè, quindi, Goldman era più forte della Fed? Yes, sir. E questa è una storia fantastica che è venuta fuori perché questa dipendente si è sentita, ovviamente, perché non c'è l'articolo 18. Danneggiato. Non c'è l'articolo 18, questa non è male. No, grande storia. Segnalo che ha un aspetto anche dal punto di vista dell'utilizzo dei media interessante, perché le registrazioni non sono venute fuori in televisione, ma sono venute fuori sui giornali. E neanche sui giornali, è venuto fuori in radio in un programma che si chiama This American Life, e ha fatto veramente strike, per cui viva la radio. E se avete delle te li ricordi questo? Questi sono i Buggles. Però quello che dicevano loro, Video Kill e Radio Star, non è vero, perché noi siamo in radio e stiamo benissimo. E quindi mandateci la radiovisione. Mandateci tutte le registrazioni che avete. Sì. Vere. Verificheremo. A me questa canzone piaceva, il tempo dei mondiali. Il Brasile è andato male, l'Italia pure, però la Germania invece molto bene. Però era bella, non ce la fate risentire, no? Siete cattivi, va bene. Dalla regia mi fanno mo basta, va bene. Decidono loro. Oh, allora, avevamo promesso di seguire un po' le elezioni del Brasile. Si vota in ottobre, quasi ci siamo, e Dilma Rousseff però è in testa, la presidente uscente, però Marina Silva sta là in corsa. È molto interessante quello che sta accadendo in Brasile. Ovviamente i giornali italiani non gliene frega assolutamente niente, loro sono presi da cose ben più grandi che noi non citiamo neppure per carità di patria, come suol dirsi. Però il test è eccezionale perché quella è la settima economia del mondo. Non è proprio una cosa piccolina che non dovrebbe interessarci. Ha problemi di crescita, inflazione, corruzione, e però contemporaneamente appunto un grande paese. Come da noi è fondamentale la televisione, è importante come da noi il denaro, ma non come da noi lì la differenza la fanno Giovanni, le donne. Le donne sono candidate, non sono coreografia. Le donne sono parte essenziale del dibattito pubblico e politico, sono molto di più di quello che noi aspiriamo, diciamo così, ad essere. Alludi? Non alludo. Alludi? Non alludo, alludo. Però non illudo neanche. Ecco, bravo. Allude e non illude. Non illude. Io non alludo e non illudo. Racconta. Salamino! Salamini soffiettini! Allora, prima l'intervista a Repubblica, dopo a chiusura del fine settimana, l'apparizione a Che tempo che fa... del, come si chiama, del caro leader, insomma, carissimo, del carissimo leader Matteo Renzi, che è tornato in Italia dopo il suo viaggio negli Stati Uniti e ha aggiornato il codice Pirritollo. Allora, tanto per cominciare, ha trovato per sé una suggestiva definizione: urge sottofondo musicale. Ha trovato Matteo Renzi, niente meno, dice di sé d'essere il capo del paese più bello del mondo. Ma manco Mao Zedong, una cosa così. È la rivoluzione culturale. Sì, è il paese più bello del mondo, il sole. Poi, dopodiché, c'è il contenuto, il dibattito oggi, la riunione di direzione con la minoranza del suo partito, il Partito Democratico, cioè quelli che una volta erano i comunisti, insomma, tra di loro se la devono ragionare, e lì il confronto è su questo tema. Laddove la pizza è l'articolo 18 e poi la pumbarola sarebbe la concertazione. Ma la cosa bella, signori, è accaduta durante la pausa di pubblicità, quando le telecamere sono spente, però non i taccuini dei cronisti che registrano tutto, e si è svelato un retroscena. E cioè il caro leader, che è al capo del paese più bello del mondo, accarezzando la proverbiale camicia dove ormai è tutto un rifiorire di sugne, ha detto: beh, sono o non sono? Ascoltate. Matilde! Cosa che sei, però? Che sogno terribile! Avevo una pancia così! Ah, che sei, mo? La paura della pancia! La pancia non c'è più! Ah, che sì! La pancia non c'è più! Ammazza, la panza non c'è più. Matilde, si risani, magri, nutrienti e conditi con olio sasso, che nutre e non ingrassa. E quindi sta povera panza c'è. In alternativa suggerirei l'olio di Castelvetrano. Posso fare una domanda buttafuoco? Dica. Ma cos'è il codice Pirritollo? Dai, facciamo un po' di... Dicesi Pirritollo di colui il quale sta sempre col ditino alzato a dare delle giuste indicazioni, non avendo solidi argomenti, ma solo gassose lucubrazioni che non hanno sostanza, appunto, zero. E sotto il Pirritollo niente. Vuol dire quello. Quota rosa! Eccomi, l'IMU colpisce ancora. Ah, questa volta sono i laburisti che in Inghilterra minacciano, in caso di vittoria nel 2015, di mettere una super IMU, lì fanno le cose in grande, sugli immobili che valgono oltre 2 milioni di sterline. La regina ovviamente sta tremando, insomma i ricconi d'oltremanica iniziano ad agitarsi, ma non sanno che il peggio potrebbe ancora capitare. Quando dall'IMU, per esempio, passeranno alla TASI, saranno dolori veri. Noi ci siamo portati avanti e infatti abbiamo capito che l'unica cosa che non potranno tassare è il buon umore. Aspetta, l'Inghilterra, la regina. Ma tanto noi la super IMU ce l'abbiamo già. Non sanno. Non è che la TASI. No, ma non sanno picchia. Che quando arriverà sarà peggio. Ma intanto noi andiamo col canzoniere. Gioco a scopone il mio compagno spariglia i sette. Compro le scarpe, mi vanno strette. Se qualche volta in festa io ballo, la mia compagna mi pesta un callo. Monto in vettura, muore il cavallo. Vado a Messina, viene il tremoto. Se compro un sigaro, ci trovo un pelo. Ma si può essere più disgraziati di... Mix 24. Il numero verde 349-238-6666. Massimo da Cantucci dice: correzione, ha detto, parlando di Renzi, sono a capo del paese più bello del mondo. Esattamente quello che ha detto Pietrangelo Buttafuoco. Andare a verificare sul podcast per chi vuole delle certezze su quello che abbiamo detto. Ma intanto, Mario, un'altra bolla. Vai, disco. Va bene questa musica, è lunedì mattina, dai. Sì. Allora, noi abbiamo parlato prima di radio alla radio, no? Cioè, la scoperta dei file, delle registrazioni, Goldman e altri. Però, come facciamo a non parlare di dischi, Giovanni? Cioè, è difficile. Allora, è solo per dirvi che insomma, il vinile va alla grande, molto molto bene, è un periodo d'oro di nuovo, la tecnologia sembrava averlo ucciso e invece è risorto, noi speriamo tanto che accada anche per i libri, ovviamente. E ora c'è anche una novità che si chiama Dual Groove Technology, che fa suonare il disco in maniera diversa a seconda di dove cade la puntina. E pensa, c'è gente che vende 60, 70, 100.000 copie con questa nuova rinascita, questa ondata. E dunque, viva il disco, viva il vinile, viva la radio, viva Buttafuoco, dai. Dai, su, forza, c'è ancora un salamino. Allora, Giovanni, Mario, ditemelo, che ditemelo. Sono bravo, ditemelo. Bravissimo. Ma perché? Io lo motivo, faccio il fact checking su me stesso. Non fai il piritollo. Non faccio il piritollo. Allora, non la sei musica, gassoso. La musica, falla sentire. Perché avevo scelto questo sottofondo? Perché io lo sapevo, lo immaginavo come sarebbe andata a finire. Vero. Vogliamo ascoltare dalla viva voce di un testimone importante? Berlusconi mi ha confermato che farà a breve questo dipartimento sui diritti civili? Ben venga. Questo non significa né che mi iscriverò a Forza Italia, né che canterò meno male Silvio C'è. Significa semplicemente avere dei punti di riferimento anche da quella parte lì. Ecco, finiva così, lo sapevo, abbiamo ascoltato Vladimir Luxuria, che ha accolto alla chiusura del cosiddetto, come si chiama, Gay Village, una cosa... Sì. Ha accolto la signora Berlusconi, cioè Francesca Pascale, la quale ha dichiarato, tante sono le confusioni della modernità, che se solo si scoprisse lesbica avrebbe necessità di aggiornare il suo partito Forza Italia, quindi ci sono delle disposizioni ben precise date ai consiglieri capitolini che dovranno votare a favore non so di che cosa, comunque di qualcosa. Ecco, è finita così, sull'onda del vizietto vedremo il cavaliere camminare come su di un filo. Anche la Pascale l'ha detto. Abbiamo Eugenio e la Pascale. Eugenio, è la Pascale, Eugenio, tu ci pensi a st'età, quello scopre che è bello andare a maschi. Tu Eugenio da Palermo. Eugenio, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, dottore Minoli. Buongiorno. Allora, che cosa ci racconta? Hai indovinato? Sì, ho indovinato grazie a mio padre, che era un grandissimo ammiratore di Petrolini e era solito fare, condire i suoi discorsi molto spesso citandolo, le sue battute migliori, sì. Comunque Petrolini e allora? Con l'Amleto. Bene, bravissimo. Feltrinelli. Grazie, auguri. Grazie a voi. Che cosa grazie fa di lavoro? Grazie, io sono un avvocato. Un avvocato, ma adesso è in studio? Sì, esatto. Ah, quindi ci ascolta mentre lavora, bello. Assolutamente sì. Assolutamente sì, quando posso, assolutamente sì. Beh, grande piacere, grazie mille. E allora adesso dobbiamo sentire, oggi è il compleanno della mitica Loretta Goggi. Con la sua storia, Marina Milone ci racconta chi è Loretta Goggi, l'ha intervistata, ripercorriamo anche la sua carriera, un'anteprima. Come si fa a fare canzonissima dopo due anni di Carrà all'ombelico, la donna sexy, bella? Mi piaci, mi piaci. La Carrà è come per Nino Benvenuti Griffi, cioè, ma perché io dovevo nascere nello stesso periodo della Carrà? Sostituivo Corrado, avevamo due mostri sacri da sostituire, io non sapevo che fare, poi Loretta però era agguerrita. Dopo il giornale radio, la storia di Loretta Goggi, ma intanto abbiamo il telefono il professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno. Con lei facciamo il nostro appuntamento settimanale sulla televisione, sulla qualità della televisione, su dov'era il canone, perché sappiamo tutti che fra un anno bisognerà decidere se ripagare il canone alla RAI oppure se questo canone verrà smembrato fra tanti pretendenti. E allora, se lo merita il canone la RAI? Provi a sentire questa canzoncina che piacerà a Pietrangelo. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore. Le gambe snelle, dormite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai? E allora cosa dobbiamo dedurre? Chi è questa bellezza in bicicletta? Dica lei. E niente meno che la RAI. Perché quando c'è il ciclismo, la RAI rinasce e dà lezioni a tutti. Ieri, per esempio, era giornata fondamentale, c'era il campionato mondiale di ciclismo su strada in Spagna e ancora una volta la RAI ha dimostrato che si può fare lo sport bene anche nella condizione di inferiorità in cui oggi è obiettivamente la RAI, stretta tra le due grandi corazzate, Sky e Mediaset, che sta reinvestendo nello sport. Il ciclismo la RAI lo fa proprio bene. Lo fa bene, ma fa bene anche la nuova domenica sportiva oppure ecco, no? Ecco. Quando c'è mi pare di sì. Insomma, nasce quest'estate col Tour de France vinto da Nibali, la RAI fa un bellissimo luglio-agosto sul ciclismo, continua. E questo nuovo clima contagia anche le trasmissioni più antiche. La domenica sportiva è la più antica trasmissione, a parte i telegiornali, della storia della televisione italiana. Nasce il 3 gennaio del 54 e poi ha attraversato anche momenti meno felici. Mi sembra che questa nuova edizione invece segni una certa ripresa. Ma c'è ancora senso la domenica sportiva? Più spazio. Quindi insomma, la domenica sportiva a cui tutti gli italiani devono tenere, perché è un po' un bene culturale della storia della televisione, forse ha trovato una nuova dimensione, meno aggressiva, meno stretta, meno concentrata, un po' più ariosa, diciamo. Aspettiamo, perché siamo solo agli inizi, ma se sono rose, come si dice, fioriranno. Ma io voglio dire un'altra cosa. Posso dica, professore, certo, oggi? Professore, dica. Guardi, sabato è successa una cosa che non succedeva da anni. Un sabato sera in cui valeva la pena di restare in casa per guardare la televisione. Io sono sempre intristito da questi sabati sera, come dire, in cui la televisione, la RAI in particolare, va a caccia di un pubblico residuale, degli anziani, dei nonni che stanno a casa magari con i nipotini mentre i genitori si prendono un giorno di libertà, in cui i giovani c'erano uno. Palinsesto esemplare, un grande spettacolo, tradizione del grande varietà del sabato sera di Massimo Ranieri, e Rai 3 invece che sperimentava questa forma Italina Day. Quindi, Salvatore, molto bello Italina Day, una grande operazione di Rai Cinema. Beh, poi poi si può discutere di questo film, bello, brutto, qualcuno segnala dei limiti. Oggi limiti ci sono sempre. Sul blog del Fatto Quotidiano di Sainati, un collega molto acuta che dice che manca la sintesi. Però so per esempio che la quota rosa vostra ha pianto vedendo questo film. Piangeva disperata. Si è commossa, piange sempre. Ma non piango sempre, voi non mi fate piangere. Sì. Noi ti facciamo ridere. Allora, al di là della qualità, siamo in chiusura, professore. È l'idea che c'è un sabato sera in cui c'è completo, un evento televisivo, c'è un servizio pubblico. Bene, complimenti alla RAI, pubblicità.